Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Come sempre il venerdì Italia in controluce è dedicato alla scuola. Oggi parliamo di compiti a casa. La parola a Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Abolire i compiti a casa? Meno compiti di tipo tradizionale. Le forme di partecipazione degli studenti sono diverse. Si possono dare stimoli agli studenti senza che siano formalmente compiti. Così il ministro della pubblica istruzione Francesco Profumo ai microfoni Sky. Lasciamo più tempo agli studenti per imparare anche altrove, fuori dalla scuola. Un dibattito apertissimo in questi giorni dopo che un gruppo di genitori francesi ha lanciato un appello. Nelle vacanze di Pasqua lasciate liberi dall'incubo dei compiti i nostri figli e quindi anche noi. Anche perché, ricordano i genitori francesi, ci sarebbe una legge del 56 che li vieta. Questo per assicurare a tutti i bambini di essere uguali. I figli di genitori ricchi e colti, che possono dunque aiutarli, come i figli di operai e immigrati, che di aiuto ne possono dare pochino. Insomma, una polemica vecchia come la scuola, ma pronta a rispuntare ad ogni consiglio di classe. Gianluca Daffi è uno psicologo dell'apprendimento e ha scritto per la Ericsson Missione Compiti, manuale di sopravvivenza per i genitori. Ma io in realtà in Italia abbiamo una situazione abbastanza diversa rispetto alla situazione francese. Il problema non è abolire o non abolire i compiti, il problema è distribuire i compiti e far sì che i genitori non si facciano carico dei compiti dei figli, perché i compiti sono dei figli e non dei genitori. Quindi in realtà la protesta dei genitori francesi mi sembra che sia, che raccolga un malessere più legato alla difficoltà che i genitori hanno nel farsi carico di un problema che è solo parzialmente loro, più che di una difficoltà appunto dei figli stessi, perché anch'io facendo scuola, ecco, vedo comunque i compiti sono tanti, ma non sono, come dice il presidente di questa associazione, esasperanti. E se sono esasperanti, ovviamente è una difficoltà che va trattata col singolo insegnante, sicuramente non a livello di istituzione scolastica. In ogni caso il compito è una parte della scuola, quindi fa parte della scuola così come fa parte la lezione in classe, così come fa parte lo studio a casa. Io credo che siano tre elementi tra di loro inscindibili. Però in realtà è un problema anche un po' italiano, mi permetto di insistere, nel senso che ad esempio tantissimi oratori ormai fanno un lavoro di dopo scuola, perché i ragazzi che sono più in difficoltà, evidentemente parliamo in molti casi di stranieri, ma che sono ormai una componente fondamentale nella nostra scuola numericamente parlando, hanno difficoltà, i genitori non li possono aiutare, da soli non ce la fanno e quindi gli oratori intervengono per aiutarli a fare compiti. Però in questo caso, come anche lei sottolinea, il compito diventa non qualcosa in più, ma qualcosa di fondamentale per quel bambino, ad esempio straniero o con difficoltà, che in classe comunque non riesce a completare la sua formazione. Perché ognuno di noi, dopo aver seguito una lezione, ha bisogno di digerirla, ripensarla, rimasticarla a casa per i fatti propri, cosa che non si può fare in classe di 23, 24, 25 bambini. E cosa che diventa ancora più difficile se il bambino che deve farla ha magari delle difficoltà o comunque non ha delle competenze, si voglia anche linguistiche, che gli permettono di interagire in modo corretto all'interno di una classe di 24-25 bambini. Cioè, bambini con più difficoltà paradossalmente hanno più bisogno di compiti, perché devono impegnarsi di più rispetto ai bambini che non hanno difficoltà. È interessante però notare che nella protesta dei genitori francesi c'è questo pezzo, dice: ci vorrebbe più tempo per fare dell'altro, meno tempo dedicato ai compiti, forse più tempo per leggere dei libri. Mi sembrava curiosa questa cosa, che da una parte si chiedesse meno tempo per i compiti per poter fare dell'altro e questo altro fosse leggere libri. Mi viene anche un po' il dubbio malizioso che leggere libri sia un po' qualcosa per dire sì, dategli un compito, ma un compito in cui noi genitori non siamo coinvolti, perché il libro se lo leggono un po' da soli, quindi non c'è bisogno di intervenire più di tanto. Ma il problema, torno a dire, è questo, che i genitori si sentono troppo coinvolti nei compiti dei figli. Le faccio una domanda: perché un genitore non può tollerare che un figlio vada a scuola con un compito non fatto o fatto male? E io rispondo da madre, perché a volte gli insegnanti ci chiedono di controllare, aiutarli, insomma impicciarci in questi benedetti compiti a casa che ne dicano i genitori francesi. Restano dunque necessari, basta organizzarsi, ne è convinta la psicologa dello sviluppo e dell'educazione Manuela Confalonieri. Nei weekend tendenzialmente molto spesso i genitori vogliono mettere un sacco di cose altre e allora riducono o ci si riduce insieme ai figli a delle fasce orarie ferie brevi che non sono sufficienti, facendo sentire il figlio magari anche in colpa, che è lento, che non l'ha fatto prima, che doveva farlo dopo, eccetera eccetera. Allora bisogna un po' come genitori dirsi qual è la priorità. Allora la priorità è che comunque li faccia bene, nessuno lo faccia sentire in colpa. Dopodiché facciamo tutte le cose che dobbiamo fare nel weekend. Se io non contratto all'interno della famiglia questo spazio, è chiaro che diventa un incubo. Allora banalmente può essere che sappiamo che il sabato mattina dalle 10 alle 12 si fa in modo che la casa sia tranquilla, che lui abbia il suo momento e li fa. In più è vero che c'è questa stessa ingerenza o questo bisogno di fare i compiti accanto, se non sostituendosi a il proprio bambino, il proprio figlio. Ma è giusto, no, che i genitori partecipino a questa azione, a questi compiti a casa? O allora, insomma, meglio che li facciano peggio, che non li facciano, ma almeno si assumano la responsabilità di quello che accade? Esatto, allora i compiti a casa sono stati pensati dagli insegnanti sulla carta perché il bambino sia in grado, uno, di farli da solo e due, che sì, gli portano via un po' di tempo, ma non troppo tempo. Chiaro che poi abbiamo insegnanti che vanno in un'altra direzione, ma parliamo di buoni insegnanti, diciamo così. Dall'altra parte, se ho garantito questo spazio e lui comunque ha perso tempo, non l'ha fatto, eccetera, può anche essere utile sicuramente che vada a scuola col compito non fatto e che quindi affronti l'insegnante dicendogli non li ho fatti. Questo fa molto parte di quel bagaglio di frustrazioni sane che mi aiutano a crescere, per cui forse la volta dopo, per evitare che l'insegnante si arrabbi, per evitare che mi dia magari un compito supplettivo, eccetera eccetera, li faccio. Anche perché diventa una sorta di dipendenza, si esatto. Aiutano i figli da piccolini e questo forse ci sta, però poi non si smette più. Poi c'è modo e modo anche di aiutarli, no? Lo dicevo prima, un conto è stare lì accanto o passare ogni tanto, controllarli dopo che li hanno fatti, e un conto è invece proprio mettersi lì appena il bambino tentenna a dirgli il risultato, piuttosto che dirgli la parola che gli manca, piuttosto che dirgli come coniugare il verbo. Allora quello crea davvero una dipendenza, per cui se non c'è la mamma non li riesco a fare, se non c'è il papà non li riesco a fare, e poi diventa che magari più avanti, quando il papà e la mamma non ce la fanno ad aiutarti perché o non hanno tempo, sono cose che onestamente non sanno, il che ci sta tutto, diventa le ripetizioni. Senta, ma i casi limite che lei si è trovata ad affrontare in questo senso? I casi limite sono appunto di ripetizioni a bambini già alla scuola primaria. Bimbi che di fronte alla prima difficoltà vedono affiancarsi, venirsi affiancato un adulto, un ragazzo giovane tendenzialmente, che comunque mi aiuta a fare i compiti. Genitori allora, terrorizzati di fare brutta figura, esatto, nei confronti della scuola poi. Sì, esatto. O che hanno visto che se ci provano loro è un litigare continuo, però questo vuole dire in un certo senso dare per scontato o dare dopo poco tempo già per scontato che il proprio figlio non sia in grado di... E questo è un vissuto molto brutto da passare al proprio figlio, perché va a incidere profondamente sull'autostima, certo, e l'immagine di sé che il bambino si sta costruendo. E fra ragazzi più grandi è assolutamente in aumento questa richiesta anche qui di ripetizioni, ma dove non sono a quel punto i ragazzi a chiederle, ma sono i genitori ad imporle. Allora questo diventa ancora più grave, cioè io a 15-16 anni devo come dire, essere in grado di chiedere aiuto se davvero c'è bisogno di questo aiuto, e non devo vivere in questa situazione di grande passività che tutto fa tranne farli crescere, tranne farli maturare, per cui passano queste ore, finita la scuola vanno a fare ripetizioni o viene a casa il professore di turno a fare ripetizioni, spazio per una crescita, un'autonomia di pensiero, un dire anche basta, non ne posso più, se non ce la faccio da solo cambierò scuola, mi farò qualche cos'altro, non ce l'hanno, perché comunque c'è la soluzione, comunque ti offro l'aiuto, prima ancora che tu arrivi a capire se lo vuoi questo aiuto. Cioè una volta i genitori erano più in grado di dire è una roba tua. E le maestre che ne pensano? Loro messe sul banco degli imputati. Cristina Petit insegna in una primaria di Bologna, ha scritto sulla sua esperienza un libro delizioso, Maestra piccola, editrice Il Castoro. Mio marito lavora 38 ore, 40 ore settimanali e il sabato e la domenica si riposa. Non capisco perché un bambino dai 6 ai 10 anni non debba riposarsi. Non solo, quindi zero compiti nel weekend. Nelle vacanze, allora le vacanze a piccole, tipo che può essere Pasqua o Natale, quasi niente, nelle vacanze estive, ma proprio una roba per dire, ma una cosa più simbolica che altro, nel senso va bene in 3 mesi di vacanze, qualcosa ci può stare, ma per far sgranchire e non perdere completamente l'allenamento. Ma nel weekend tassativamente no, no, perché io mi riposo anch'io, che ho un'altra età, e tutti gli adulti che lavorano 5 giorni a settimana non lavorano per 2 giorni, non pensano al lavoro, non vedo perché ci deve pensare un bambino. Non solo, cosa molto più grave, di fare i compiti con i propri figli è altamente dannoso per le famiglie, prima di tutto perché si innescano dei meccanismi malsani e perversi quando si fanno i compiti con i propri figli, secondo me, perché non è più, non è il nostro rapporto, cioè il rapporto scolastico è quello che io ho con l'insegnante, basta, con i genitori si innescano dei meccanismi di com'è che non capisce, allora è, ma allora forse, allora ma è, insomma tutta una roba che da cui non se ne esce, io me ne rendo conto con i miei di figli, che è uno strazio. Senta, ma dalla sua esperienza di maestra, i genitori non sono mai contenti? No, non sono mai contenti, certo, non sono mai contenti, mai. Anche per oggi è tutto, Italia in Controluce torna lunedì mattina alle 6:30. Una buona giornata.